La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla Biblioteca del Senato, che quest'anno festeggia i primi 10 anni di apertura al pubblico nella sede di Palazzo della Minerva. 10 anni durante i quali i cittadini hanno potuto usufruire, tra l'altro, della più importante raccolta di statuti dei comuni e delle corporazioni dal tardo medioevo all'età contemporanea. Ospite ai nostri microfoni, il direttore della biblioteca, Sandro Bulgarelli. L'Italia è noto, è il paese dei comuni, è una tradizione storica che affonda le sue radici fin nel Medioevo e che si dipana attraverso i secoli fino ai nostri giorni. Una storia locale, potremmo definirla, che certamente vale la pena di ripercorrere visitando i preziosi documenti ospitati nella Biblioteca del Senato, che proprio nel 2013 celebrerà i 10 anni di apertura al pubblico. È un viaggio che possiamo cominciare insieme ai nostri ascoltatori anche noi consultando il sito online della biblioteca. La vocazione localistica che ha connotato la biblioteca fin dalla sua costituzione e la successiva politica di acquisizioni hanno dato vita ad una raccolta unica, in particolare per quanto riguarda le edizioni dall'inizio del Cinquecento alla fine dell'Ottocento, sulla cui base si è costituito uno specifico fondo autonomo. Circa 1200 volumi, caratterizzati da particolare pregio tipografico, ricco apparato iconografico e notevole valore documentario come fonti storiche. A completamento e supporto scientifico del Fondo Antico di Storia Locale, la biblioteca acquisisce monografie generali e speciali dedicate alla storia locale italiana, tentando di garantire il maggior grado possibile di copertura bibliografica nei confronti di un ambito disciplinare verso il quale l'interesse storiografico negli ultimi decenni si è significativamente accresciuto. Oltre che nei cataloghi storico ed informatico della biblioteca, è possibile recuperare le informazioni bibliografiche attraverso la banca dati specializzata Il Comune e la Storia, che censisce anche gli articoli di argomento storico, localistico e statutario pubblicati dai periodici locali posseduti dalla biblioteca. Il Comune e la Storia, dunque, in cui è possibile rintracciare appunto la storia delle città, ma anche le piante, i codici, i giornali. Dal più antico codice del 1250, Statuti di Venezia, fino ai quotidiani in formato digitale di oggi. La banca dati è organizzata per territori regionali e all'interno della medesima area geografica le schede sono ordinate per tipologia di pubblicazione. La prima sezione per gli studi di tipo metodologico, i rubricari, i repertori, ma anche le descrizioni codicologiche e o paleografiche. La seconda sezione per le edizioni di statuti e di normative comunali e territoriali. La terza per gli studi che utilizzano normative locali quale fonte primaria. La quarta e la quinta per le edizioni e gli studi di normative di enti ecclesiastici, confraternite ed ospedali l'una e per le edizioni e studi di normative di corporazioni e associazioni civili l'altra. La sesta per le tesi di laurea. Infine, sono state aggiunte una settima e un'ottava sezione, rispettivamente per gli studi di storia locale e per le segnalazioni e i resoconti di convegni, congressi, seminari, giornate di studio. I limiti cronologici dei contenuti delle opere segnalate in questa base di dati sono quelli convenzionalmente accettati per la raccolta di statuti. Si parte dalla pace di Costanza del 1183 fino all'invasione napoleonica in Italia. Ecco, tutto questo patrimonio è certamente un patrimonio utile e fondamentale da consultare. Ne parliamo proprio con il direttore della biblioteca, Sandro Bulgarelli. Buonasera, dottor Bulgarelli. Grazie. Buonasera. Allora, abbiamo appena illustrato ai nostri ascoltatori un po' in linea di massima, diciamo, qual è la ratio e soprattutto come si dipana questo notevolissimo patrimonio che voi avete raccolto. Ce ne parli un po' più nel dettaglio. Come è nata questa iniziativa? Quali risposte state avendo nel corso degli anni? Innanzitutto si tratta di un progetto che è stato avviato nel 1870, subito dopo la presa di Roma. Questo è interessante perché la biblioteca fino a quella data era una biblioteca così abbastanza modesta come entità e i senatori, in particolare furono Enrico Poggi e Atto Vannucci, un giurista e uno storico, ma molti altri si sono in seguito occupati della questione, elaborarono il progetto di creare una biblioteca unica e singolare, c'è scritto in una loro corrispondenza, che raccolga tutte le storie e tutte le leggi delle città italiane. Questo è un fatto molto importante ed interessante, perché stiamo parlando non a caso di un momento in cui sostanzialmente l'Unità d'Italia era stata compiuta e quindi c'era un intento anche celebrativo in qualche modo ricostruire tutta la storia italiana attraverso proprio la sommatoria di tutte le storie delle città, dei comuni piccoli e grandi. Questo impulso avviato allora continua anche oggi, quindi questa raccolta che, come è stato detto con precisione, comprende 1200-1300 edizioni antiche, è stata acquisita sul mercato antiquario nel corso del tempo, dal 1870 a oggi, un processo che prosegue e, come è stato ricordato, comprende anche le edizioni contemporanee. Vorrei aggiungere un altro elemento. Prima ho parlato di tutte le storie e tutte le leggi. Le leggi sono gli statuti dei comuni, che è l'altra raccolta che fa pendant con questa. Ecco, nella biblioteca del Senato abbiamo il fatto essenziale di poter far dialogare fra loro varie fonti, che sono le fonti storiografiche e giuridiche. Accanto agli statuti dei comuni abbiamo anche la legislazione degli antichi stati e abbiamo anche tutto il diritto comune, cioè quel substrato di adattamento del diritto romano ai tempi correnti che si manifesta in quei volumoni, in gran parte in latino, editi sempre fra 400 e fine del 700. All'inizio appunto del nostro approfondimento odierno ricordavamo appunto come la storia locale sia una caratteristica fondamentale del nostro paese, che ci riporta indietro molto nel tempo. Attraverso questo vostro imponente patrimonio è possibile, lei diceva, storie e leggi delle città italiane. E cosa emerge? Quali sono gli elementi caratteristici che possono in qualche modo essere il filo conduttore di questo, chiamiamolo anche, importante progetto culturale? Io noterei innanzitutto questo: l'importanza dei documenti è soprattutto per quello che è un po' il tessuto connettivo delle città italiane, cioè i comuni medio-piccoli, perché è ovvio che le grandi città hanno altri centri di documentazione negli archivi di Stato, nelle biblioteche comunali locali, mentre nel caso appunto della Biblioteca del Senato abbiamo un affioramento di fonti che altrimenti non sarebbero note. Le caratteristiche sono abbastanza deducibili. Lei prima ha citato la pace di Costanza, se ci aggiungiamo anche le costituzioni di Federico II comprendiamo come l'Italia del centro settentrionale abbia avuto gli statuti dei comuni come manifestazione e base della propria autonomia, mentre il sud ha avuto una normativa generale, un ordinamento monarchico accentrato che ha ridotto l'autonomia cittadina e di fatto non ha prodotto statuti ma altre forme giuridiche, tipo gli accordi feudali, eccetera. Ecco, la banca dati, l'abbiamo ricordato, è organizzata per territori regionali. Questo è una scelta che aiuta anche la consultazione, immagino sia stato frutto di una valutazione che avete fatto lì alla Biblioteca del Senato. Sì, non sarebbe stato facile accorpare, secondo l'evoluzione storico-politica, tutti i vari territori, quindi partire dall'oggi e considerare anche l'Italia fuori d'Italia, cioè per esempio la Dalmazia, cioè quei territori che facevano parte di uno Stato italiano, nel caso Venezia, ma che attualmente fanno parte di altri Stati. E questa è recuperabile anche in questo modo la documentazione. Quindi allora abbiamo certamente un connubio tra quella che è la storia locale e le poderose possibilità che offre l'informatica oggi, e questo connubio consente una consultazione di un enorme materiale documentale. Quali sono i soggetti che in prevalenza utilizzano queste fonti? Studenti, immagino ricercatori? Sì, è una tipologia abbastanza intuibile, perché abbiamo sia una fascia di curiosi, di normali cittadini che vogliono sapere di qualcosa di più sulla propria paese, sul proprio comune. Abbiamo gli studenti ed abbiamo anche degli studiosi di specializzazione molto particolare, anche di studiosi di fama internazionale, che mettono fanno dialogare, diciamo, queste fonti fra loro. Sicuramente, come è stato ricordato, l'apertura al pubblico ha dato una nuova visibilità, sì, a questo apparato di documenti, e la scelta di investire molto sul sito nasce proprio da questa nuova pubblicità della biblioteca, che ricordo dal 2003 è aperta al pubblico, ma dal 2007 è unita funzionalmente alla Biblioteca della Camera dei Deputati. Quindi abbiamo nel cuore di Roma una piccola biblioteca nazionale in cui il pubblico può liberamente circolare, entrando o da via del Seminario Camera o da piazza della Minerva Senato, sì, e circolando liberamente all'interno. Le chiederei, dottor Bulgarelli, in conclusione di questa nostra conversazione, una sua valutazione sul valore della storia locale all'interno della ricerca storiografica più ampia, cioè che valore aggiunto può fornire? È un tema di lungo periodo quello che lei sta delineando, nel senso che sicuramente in età moderna la città era un po' l'interesse, l'oggetto prevalente della storiografia. A questa si sovrappone una nascita di una storiografia statale, tra virgolette, cioè degli stati italiani preunitari, insomma, per esempio come la storia del Granducato di Toscana di Jacopo Galluzzi, no? Che sì, parla della Casa dei Medici e che venne fatta su committenza di Lorena. Adesso il discorso è quello storiografico generale, nel senso che i due livelli, ho detto lungo periodo, alludendo chiaramente a Brudel, ma la microstoria locale dialogano e si integrano. Io vedo sempre con piacere che molte pubblicazioni nascono grazie alle nostre fonti, hanno questo respiro. Grazie dottor Bulgarelli, buona serata. Grazie.